Magazine 24, la rassegna dei settimanali, a cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro appuntamento con la stampa periodica, con i settimanali, i mensili che potete trovare in questo periodo. Vorrei cominciare oggi con una domanda un po' provocatoria. Voi abolireste il Natale? Ve lo chiedo perché Isabella Bossi Fedrigotti sul magazine del Corriere della Sera, visto giovedì, ci informa che non ci sarà più Natale a Oxford, ma solo un festival d'inverno. Buon festival, felice festival, si dovrà scrivere dunque su festoni e luminarie e magari anche sulle vetrine dei negozi e sui biglietti d'auguri. E se non mancherà un grande albero in piazza, non si chiamerà però albero natalizio. Tutto questo lo ha deciso il Consiglio Comunale per non turbare la minoranza islamica. Super corretti politicamente gli amministratori oxfordiani, e ciò benché il portavoce dei musulmani abbia stroncato la trovata del festival d'inverno destinato a far scomparire il vecchio caro Natale che a quanto pare non dispiace neppure all'Islam. Ecco, su queste pulsioni del politicamente corretto quasi all'autolesionismo torna anche Donna Moderna. Donna Moderna, sulla stessa notizia, appunto, questa decisione davvero inconsueta del Consiglio Comunale di Oxford, ma non così lontana da qualche sensibilità che serpeggia poi anche nelle nostre scuole, ad esempio, in cui si ritiene di non dover festeggiare il Natale per non disturbare chi nel Natale e nella religione cattolica non si riconosce. Dicevo, torna anche Donna Moderna con un confronto tra il cardinale Tonini, Ersilio Tonini, che è arcivescovo della diocesi di Ravenna, e il sociologo Sabino Acquaviva, sociologo di fama nazionale e anche internazionale. Ovviamente il cardinale Tonini si manifesta apertamente contrario, dice è una festa che ci rende tutti uguali, e avverte Tonini alla domanda ma Oxford non vuole offendere la sensibilità delle minoranze, dice mi meraviglio, anche i pensatori laici sono d'accordo con me. È curioso notare come lo stesso Acquaviva, collocato nella stessa pagina, nella colonna accanto a quella del cardinale Tonini, dica è assurdo perché rischiamo di perdere le nostre radici. Negli Stati Uniti, avverte Acquaviva, ogni minoranza celebra le proprie feste. Gli americani, tuttavia, non si sognano di cancellare le loro ricorrenze tradizionali. Anzi, le esportano, come nel caso di Halloween, che è arrivato ovunque. Vedremo come andrà da noi, se anche in qualche scuola magari ci sarà anche quest'anno il solito dibattito su abolire o mantenere il Natale. L'accenno però che fa Acquaviva agli Stati Uniti ci dà l'occasione per rientrare ancora un momento sull'elezione di Barack Obama alla presidenza degli Stati Uniti. Di questa elezione si continua a parlare naturalmente su molti periodici, con ritratti, ne abbiamo visti già nelle puntate scorse anche per la First Lady, Michelle Obama, che è un personaggio che sicuramente segnerà parecchio questo periodo di reggenza del marito alla Casa Bianca. Vi segnalo però il discorso del perdente, il discorso di McCain lo riprende proprio Donna Moderna. Donna Moderna, nella rubrica affidata a Fabrizio Rondolino, avverte un'altra grande lezione viene dallo sconfitto il senatore repubblicano John McCain. Non so quanti di voi abbiano avuto l'occasione di sentire il discorso di McCain non appena sono stati diffusi i primi risultati che lo davano perdente. Un discorso che era molto bello e molto toccante. Ne riporta qualche frase proprio Rondolino. Dice, poco fa, ha detto McCain nella notte dei risultati, ho avuto l'onore di chiamare il senatore Obama e di congratularmi con lui per l'elezione a presidente del paese che entrambi amiamo. In un contesto lungo e difficile come questa campagna elettorale, il solo fatto che abbia vinto, sono sempre parole di McCain, quindi del perdente, merita tutto il mio rispetto. Commenta Rondolino, i politici italiani passano il tempo a insultarsi come se non avessero altro modo di mostrare la propria esistenza. Mentre ancora era in corso lo spoglio delle schede, McCain invece ha chiamato Obama il mio presidente e si è detto pronto a collaborare con lui. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di un business che non sembra tramontare, quello del tabacco. Ne parla Il Mondo, dedica un'inchiesta appunto al business del tabacco, un business come sappiamo molto pericoloso per la salute, ma l'inchiesta è significativamente intitolata "Vietato fumare, permesso guadagnare". La presenta Filippo Astone sul Mondo, avverte che secondo i dati del Tobacco Observatory nel 2007 questo settore in Italia ha generato ricavi per 17,4 miliardi di euro, di cui 12,9 sono andati all'erario, quindi è un settore ad alto rischio per la salute ma di sicuro vantaggio per le casse dello Stato. L'incremento rispetto all'anno precedente è stato del 3%. Risultato di una riduzione dei consumi in quantità dell'1% e di un aumento medio dei prezzi del 4%. Le imposte non sono cambiate. Quindi le normative molto stringenti che sono state varate da qualche anno in Italia per impedire appunto il fumo nei locali aperti al pubblico non sembrano avere intaccato decisamente le abitudini dei fumatori italiani. Infatti avverte sempre Astone su questa inchiesta del Mondo, per il 2008 le attese dell'osservatorio sono di una conferma del trend, calo delle quantità dello 0,7%, ma incremento dei prezzi di vendita del 4% e dei fatturati del 3% circa. Per il 2009 le previsioni parlano di una ulteriore spinta all'insù grazie all'inevitabile aumento delle imposte. Tra l'altro scopriamo da questa inchiesta che sulle sigarette italiane le imposte sono ancora tra le più basse del vecchio continente. Nel medio termine si parla di un salto delle aliquote del 18%, tanto che anche il commissario UE incaricato delle problematiche fiscali, Laszlo Kovács, ha informato che per decisione della Commissione entro il 2014 gli Stati membri dovranno aumentare la soglia minima delle accise sulle sigarette, portandola dal 57%, fanno 63 euro per 1000 sigarette, al 63%. 190 euro per 1000 sigarette. Un'ultima annotazione sempre da questa inchiesta di Astone sul Mondo: l'Italia è il maggior consumatore europeo di sigarette, 92,8 milioni di chili, ma erano 103 solo nel 2003, quindi qualche cosa la legge Sirchia ha fatto in termini di consumi, ma in realtà le riduzioni sono modeste, gli aumenti invece sia per l'erario sia per i produttori continuano a essere più consistenti che non il cambio di abitudini degli italiani. Dai comportamenti pericolosi a rischio come il fumo passiamo allora ai medici, una notizia che riguarda Medici Senza Frontiere, ce la segnala Famiglia Cristiana nel suo panorama intitolato 7 giorni come vanno le cose. Il Ministero degli Interni ha revocato l'intesa con Medici Senza Frontiere, ma direte voi Medici Senza Frontiere non dovrebbe operare in Italia ma in aree più a rischio e meno organizzate, in altri paesi insomma. Beh, non è esattamente così, perché ci informa Famiglia Cristiana, a fine ottobre i volontari di Medici Senza Frontiere hanno sospeso l'assistenza medica ai migranti che sbarcano sull'isola di Lampedusa. Per noi è impossibile lavorare dal momento che il Ministero dell'Interno ha deciso di non firmare il nuovo protocollo d'intesa che ci permetterebbe di operare serenamente con tutte le autorizzazioni e le garanzie necessarie. È la denuncia di Kostas Moskokorkitis, direttore generale di Medici Senza Frontiere. Tra l'altro ci informa questo articolo di Roberto Zichitella che anche nel 2004 ci fu un'interruzione, poi c'è stata una nuova firma del protocollo, però torna a rischio quindi l'attività svolta da questa associazione nei confronti degli immigrati che sbarcano a Lampedusa. E allora da questioni di immigrati che sbarcano allarghiamo un attimo il discorso fuori dai confini di casa nostra a una interessante intervista che viene presentata dal Nouvel Observateur di questa settimana. L'intervista è a un sociologo francese, si chiama Didier Lapeyronie, e questo sociologo ha appena dato alle stampe un libro dedicato ai ghetti urbani. Non so quanti di voi ricordano i casi dell'autunno 2005, quando nelle banlieue, cioè nella periferia di Parigi, ci furono, e non solo di Parigi, ci furono degli atti di violenza, macchine incendiate, interventi della forza pubblica. Ecco, questa intervista presentata dal Nouvel Observateur avverte che con la creazione di questi ghetti urbani, la consistenza di questi ghetti urbani è di fatto immutata. Infatti, avvisa la Peyronie, il ghetto è il prodotto di due meccanismi, la segregazione sociale e razziale e la povertà. La povertà che costringe le persone nel loro quartiere e porta a una costruzione di una società con sue proprie regole, una sua economia, quella che chiamiamo l'economia nera, potremmo anche dire sommersa in qualche modo, e anche un suo sistema politico. Ancora da questa intervista di La Peyronie, al sociologo La Peyronie, avverte: il ghetto è un mondo di legami forti, tutti si conoscono, ogni individuo conosce gli altri, e questi legami forti servono a tenere fuori in qualche modo i legami più deboli dello Stato. Spiega l'unico modo di uscire da questi ghetti, che avverte sempre il Nouvel Observateur, si stanno creando anche in zone di provincia che dovrebbero essere considerate più tranquille, è quello di sostituire a questi legami forti, a questo troppo di sociale, troppo di famiglia, troppo di etica, di tensione etica sbagliata, come avverte la Peyronie, i legami più deboli, più malleabili, tipici della società civile. Magazine 24. Bentornati alla nostra rassegna stampa dei periodici. Parliamo per un qualche minuto di denaro. Non che ci siano grandi belle notizie sui periodici in circolazione in questo periodo, ci avverte ad esempio Panorama in un'inchiesta significativamente intitolata L'Italia che vive a debito, che l'indebitamento delle famiglie in rapporto al reddito disponibile è drasticamente cresciuto. In una tabella che presenta una elaborazione di dati Eurostat risulta che nel 2000 l'Italia aveva un indebitamento delle famiglie dello 0,32, che ora nel 2007 è salito allo 0,50. Siamo, a dir la verità, ancora molto ben posizionati, cioè tra i meno indebitati in assoluto nel confronto con la Germania, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi, ma tuttavia la crescita è stata importante. Sempre in materia di denaro e di soldi, passiamo all'Espresso. L'Espresso ci avverte in un articolo di Massimo Nascimbene di quanto ci costa mantenere un'autovettura. Ci costa parecchio e ci costa sempre di più, tra l'altro, perché, come dice Nascimbene, da 5.000 euro all'anno, che erano gli euro necessari per acquistare e mantenere un'auto di proprietà, siamo ora passati a 6.500 euro, quasi 550 euro al mese per mantenere un'autovettura. La chiusura di Nascimbene, a conti fatti, a molta gente converrebbe usare il taxi. Questo probabilmente ognuno deve poi verificarlo sulle sue proprie tasche. È vero che, come avverte Nascimbene, sono soprattutto le polizze assicurative e i costi dei carburanti ad aver contribuito a questo caro dell'auto. Però è anche vero che i risparmi poi si vanno a fare un po' dappertutto. Tornando su Panorama, infatti, si scopre che a Milano c'è un boom di parrucchieri cinesi, parrucchieri per donna ma anche parrucchieri per uomo. Chi ha paura del Figaro cinese, è il titolo dell'inchiesta di Raffaele Panizza, shampoo e taglio a 6 euro e orari di lavoro non stop. A Milano, Roma e Torino, ma soprattutto a Milano, vi dicevo, le forbici orientali low cost allarmano i coiffeur italiani, che avvertono la loro igiene è pessima, i prodotti scadenti. Ma intanto, fra minacce e pistole giocattolo, la tensione monta. Cosa significa? Nell'articolo si avverte che qualche volta i metodi di convincimento adottati dai parrucchieri cinesi per poter rilevare un'attività da altre persone non sono esattamente ortodossi, ma comprenderebbero, condizionale d'obbligo, anche delle minacce. Veniamo a qualcosa di più leggero, Facebook. Quasi ogni settimana parliamo di Facebook, che è decisamente uno dei temi più cari ai periodici italiani, ma non solo, perché ne abbiamo trovato traccia anche su periodici stranieri. Questa volta Marta Serafini sul Corriere della Sera Magazine, un articolo: come possiamo difenderci da Facebook? Cosa c'è di rischioso in Facebook? C'è ad esempio la possibilità che vengano violate delle nostre caratteristiche personali, venga violata la nostra privacy. Allora, cioè, ci sono anche 7 punti che consigliano di non fornire dati che non servono, che non sono essenziali per la registrazione, aumentare i filtri e fare una selezione molto severa degli amici che poi si connettono. Come sapete, Facebook consente di connettere amici e conoscenti in questa comunità chiusa, ma chiaramente non impermeabile, e quindi mettersi completamente in piazza, ancorché si tratti di una piazza virtuale, non è mai consigliabile. E torniamo a un altro tema che è ricorrente: l'università. Si continua a parlare di università, si continua anche a protestare nelle università. Il ministro Maria Stella Gelmini continua per parte sua a portare avanti il suo progetto di riforma. Un decreto legge è stato presentato da poco, vedremo poi come questo tentativo di intervento si svilupperà. Ma ci sono 2 storie che sono segnalate sul Venerdì di Repubblica che mi faceva piacere segnalarvi. La prima è raccolta da Chiara Paolin, ci racconta di una storia successa a Pavia, dove la molecola anti-AIDS l'ha scoperta un team di precari. Spiega l'articolo di Paolini: in soli 3 anni Giovanni Maga, virologo del CNR a Pavia, ha scoperto una molecola capace di bloccare il virus dell'AIDS. Roba da Nobel? Forse. E il bello è che all'Italia non è costata nulla, tranne il sacrificio dei ricercatori. Maga ha trovato i fondi sfruttando progetti di ricerca UE, ha creato una rete di collaborazioni in Italia e all'estero, messo su una squadra di studenti e borsisti. L'unico assunto a tempo indeterminato è lui, che spiega: sono stato precario a lungo, il dramma nel nostro paese è che si vive per anni senza certezze, con 900 euro al mese, in balia degli eventi e della capacità di fundraising del dipartimento, cioè di raccogliere fondi. Ora che sono un responsabile di ricerca passo un sacco di tempo a cercare fondi, ormai da 10 anni il CNR riesce solo a mantenere attiva la struttura, per lavorare ai progetti dobbiamo trovare noi le soluzioni. Racconta poi Chiara Paolin che una ricercatrice di questo gruppo ha passato i weekend degli ultimi anni a lavare i piatti, ma tenendo ben nascosto l'attività universitaria. Perché? Perché se sanno che sei laureato è più difficile trovare un lavoretto. Ormai si è sistemata, ha trovato un buon contratto in Francia. Commenta Maga: è inevitabile, perdiamo gli studenti più brillanti e in più non sfruttiamo i nostri risultati. La molecola che abbiamo scoperto ora va brevettata, ma non abbiamo i 50.000 euro per farlo. Serve un'azienda farmaceutica che la testi. Se fossimo negli USA ci sarebbe già, ma qui è diverso. Per un anno lo studio è protetto, poi chi vorrà potrà appropriarsene, ma difficilmente sarà un'azienda italiana. Ecco, questa chiusura decisamente poco incoraggiante viene, ohimè, ribadita da un altro articolo che sta sempre sul Venerdì. Si parla di un'altra ricercatrice, si chiama Michela Marzano, ma in realtà è ormai una ricercatrice francese a tutti gli effetti, perché ho pubblicato ora un libro. Lei si occupa di sociologia, di pornografia in particolare, e su internet, nonostante la signora Marzano sia assolutamente italiana, romana, anzi 38enne, da 10 anni vive a Parigi, e su internet gli anglosassoni la definiscono filosofo francese. Anche i francesi se la annettono e parlano di filosofo franco-italiana. Marzano scuote la testa: sono italiana, nessuna intenzione di cambiare nazionalità, però ormai scrivo in francese. Si è laureata alla Normale di Pisa, dottorato con Remo Bodei, oggi dallo Stato francese prende 2.200 euro al mese. Poco in un posto esoso come Parigi, ma qui, avverte la Marzano, un ricercatore dispone di maggiore libertà, se non altro perché non ha l'obbligo dell'insegnamento. Vicende parallele tra Pavia e Parigi, ahimè, ancora però in favore dei francesi. Bene, con questa segnalazione relativa alla ricerca italiana e alla ricerca che gli italiani possono fare invece in altri paesi, si chiude la nostra puntata, il nostro appuntamento con la rassegna stampa dei periodici. Io ringrazio Peter Bescappé per l'assistenza tecnica. Vi ricordo che con il Sole 24 Ore questa settimana potete trovare in edicola L'Impresa, la rivista italiana di management. La copertina è dedicata a un'intervista alla pubblicità anticrisi al presidente UPA Lorenzo Sassoli De Bianchi. L'Impresa è in vendita con il Sole 24 Ore, il numero di novembre 2008. Grazie e a risentirci alla prossima settimana.